Decima stazione. Gesù spogliato delle vesti. Sì, tutto, assolutamente tutto. Per amore di Dio e per la salvezza delle anime dobbiamo soffrire fino alla vergogna. In questo consiste la prova. Il puro per eccellenza è stato spogliato e gli impuri lo hanno schernito nella sua purezza e il nostro Signore ha resistito alle beffe dell'impurità. Non sembra senza significato il fatto che resista alla beffa chi ha già resistito a tanti tormenti, ma ci era necessaria anche questa lezione. A causa del disprezzo di una domestica, San Pietro ha negato. Quanti uomini hanno abbandonato il nostro Signore per paura del ridicolo? Infatti, se vi sono persone che vanno in guerra ad esporsi ai colpi e alla morte per non essere scherniti come vigliacchi, non è assolutamente vero che certi uomini hanno più paura di una risata che di qualsiasi altra cosa? Il Divino Maestro ha affrontato il ridicolo e ci ha insegnato che niente è ridicolo quando è nella linea della virtù e del bene. Insegnami, Signore, a riflettere in me la maestà del tuo aspetto e la forza della tua perseveranza, quando gli empi vogliono usare contro di me l'arma del ridicolo.